Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Ritorniamo sui mutui, tema che ci è capitato in passato di affrontare con periodicità molto frequente e ricorrente. Adesso stiamo inseguendo, come sapete, tutte le novità della manovra e abbiamo trascurato questo argomento, ma in realtà c'è ben poco da trascurare perché le difficoltà delle famiglie sono molte, quindi sia il pagamento di un mutuo in corso sia la richiesta di un nuovo mutuo sono due problematiche appunto sempre attuali e in certi frangenti anche un po' situazioni difficili da affrontare per gli italiani e da superare per gli italiani, e lo abbiamo appunto già osservato monitorando nel corso degli ultimi mesi anche l'andamento del mercato e in particolare delle richieste che sta subendo una battuta d'arresto. Oggi torniamo a parlare di questo argomento, facciamo il punto su alcune novità che sono state offerte agli italiani nei mesi scorsi per agevolarli nell'affrontare questi delicati passaggi della propria vita. Oggi parleremo in particolar modo del fondo di solidarietà che permetteva di sospendere il pagamento delle rate, una iniziativa che è stata presa dal Ministero dell'Economia in concomitanza con la cosiddetta moratoria dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, due iniziative appunto a cui abbiamo dato molto spazio a Salva Danaio. Parleremo del fondo di solidarietà perché per la verità era una dotazione naturalmente limitata che si è esaurita molto rapidamente. Adesso nell'ambito della manovra Monti c'è in ballo la discussione su una ricostituzione appunto di questo fondo, di una riapertura di questo fondo per permettere anche alle famiglie che si ritroveranno magari in difficoltà prossimamente di potervi accedere. E nel frattempo è stato anche istituito nei mesi scorsi per le giovani coppie con contratti di lavoro a tempo determinato, insomma per lavoratori precari, è stata data la possibilità a queste giovani coppie attraverso un altro fondo di aderire appunto a questo fondo di garanzia che permette di accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa a tassi favorevoli. Questa ne riparliamo perché è invece ancora un'opportunità aperta. Il fondo è ancora largamente dotato, però insomma forse perché molti giovani non conoscevano questa opportunità, non in molti hanno avuto il modo appunto di accedervi, e quindi stamattina vi torniamo a raccontare le caratteristiche di questa iniziativa per capire anche se con i vostri parametri, i vostri standard rientrate tra le coppie che magari potrebbero appunto approfittare di questa occasione. E chiaramente oltre a queste due iniziative ci sembra anche utile tornare a fare il punto della situazione dei mutui raccogliendo le domande e le esperienze degli ascoltatori, ma soprattutto cercando di capire anche come il mercato sta andando in questo momento, visto che i tassi sono sempre piuttosto bassi, ma gli spread, cioè i rincarichi, chiamiamoli così, che le banche stanno applicando per problematiche legate alla loro raccolta fatta con difficoltà in questo momento, stanno invece notevolmente lievitando, per cui parleremo anche di questa mattina, le difficoltà che avete nel richiedere il mutuo, soprattutto perché la banca dice no, e insomma che cosa sta accadendo. Chi abbiamo con noi questa mattina? Intanto Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui Online. Roberto, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Bentornato. E poi, siccome due fondi di cui ho parlato prima sono gestiti per conto del Ministero dell'Economia dalla Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA, abbiamo due, come dire, funzionari di questo organismo che stamattina, ognuno per la propria competenza, ci spiegherà appunto come funzionano queste due iniziative. Intanto ringrazio e saluto l'avvocato Giulio Asciotti, che torna a Salva Danaio, responsabile gestione fondi di solidarietà di Consap, e con lui esploreremo il tema del fondo di solidarietà che permette alle famiglie di sospendere il pagamento delle rate. Avvocato Asciotti, buongiorno, bentornato. Tornato. Grazie. E poi ci collegheremo, anzi lo abbiamo già, credo, quasi pronto, anche con il dottor Roberto Morgante, responsabile della direzione amministrazione di Consap, con lui invece il punto relativo ai mutui che Consap gestisce destinati alle giovani coppie. Dottor Morgante, buongiorno e benvenuto anche a lei. Ci sente? Non lo abbiamo ancora, sì, adesso sistemiamo il collegamento telefonico. Comunque, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Se ci volete scrivere potete farlo con tre modalità diverse, qua ormai ne abbiamo per tutti, non possiamo sfuggirvi. 349-238-6666 se ci volete inviare un sms. salvadanaio@radio24.it se ci volete mandare una mail. Ci potete scrivere anche su Facebook, l'indirizzo a cui potervi collegare è salvadanaio-radio24. Un'occhiata alla borsa, ma molto rapida, perché vorrei andare subito al tema di questa mattina. Oggi i listini tentano di recuperare un po' del terreno che hanno perso ieri, ed è stato tanto. Milano più 0,8%, Parigi più 0,5%. Francoforte guadagna quasi un punto, Londra più 0,6. Stamattina era partito molto male la seduta sul mercato obbligazionario, perché il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi era di nuovo rivolato a 490 punti base, intorno alle 11 ha toccato i 495. Poi c'è stata una buonissima asta del tesoro spagnolo, e il mercato si è un po' ritirato dalla pressione, diciamo, e lo spread fra BTP e Bund ha segnato 485 punti base, quindi è ritornato un po' a scendere. L'euro sul dollaro adesso vedo che recupera 1,30. Per la borsa è tutto, dico solo che vanno bene tutti quanti i titoli bancari. Oggi monitoriamo Unicredit, che vara l'aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo. Allora, Roberto Anedda, comincio con te a fare un po' il punto della situazione con mutui online, naturalmente anche mensilmente fate un punto della situazione su richieste di mutui, su mutui erogate da parte delle banche, sui costi di questi finanziamenti, naturalmente soprattutto legati alla prima casa, e adesso abbiamo anche un pacchetto, una manovra economica che inasprirà la tassazione sulla casa dall'anno prossimo, quindi dobbiamo monitorare un po' anche l'attualità da un altro punto di vista. Qual è il quadro che ci puoi presentare oggi? Certamente si conferma un po' lo scenario che abbiamo visto e commentato anche nei mesi scorsi. Il fenomeno dello spread di cui si parlava poc'anzi, del famoso Bund BTP, va a scapito poi del costo del denaro per le banche stesse, almeno per le banche italiane soprattutto, e questo ha portato a un maggior costo crescente anche dei mutui, con lo spread questa volta applicato dalle banche sui mutui, che ormai è stabilmente come media oltre il 3%. Ma oltre il 3% siamo arrivati. Guarda, l'ultima volta che abbiamo fatto la puntata, non so se sia stato meno di un mese fa. Era novembre, eravamo ancora intorno al 2,70, tra il 2,5 e il 2,70, quindi è ulteriormente incrementato, proprio perché purtroppo anche questo spread fa fatica a scendere. E se poi questa è una media, peraltro ci sono quindi dei picchi molto alti. Esatto, poi i picchi sono anche superiori al 4, e questo fa sì che anche i migliori tassi sui mutui ovviamente siano abbastanza elevati e complichino l'accesso al mutuo per un crescente numero di persone. Non a caso, sia dal fronte della richiesta, proprio quindi da parte di consumatori che si orientano verso il mutuo, sia da parte delle offerte, in questi mesi si stanno registrando contrazioni sempre maggiori del mercato. I dati degli ultimi mesi provenienti da Assofin o da CRIF ad esempio segnalano contrazioni nell'ordine del 20 o del 30% da entrambi i lati, quindi un fine anno veramente in forte frenata per quanto riguarda questo mercato, ma inevitabilmente, proprio perché lo scenario di incertezza è effettivamente di costi reali maggiori, fa sì che più persone, a meno che non abbiano un'esigenza immediata di fare il mutuo, aspettino un attimo per fare delle esatto, anche perché adesso bisogna fare anche un po' di conti per capire l'anno prossimo quali altre voci in bilancio la famiglia dovrà tenere in considerazione, quindi chiaramente se prima magari si aveva anche una disponibilità finanziaria per anticipare qualcosa sull'acquisto dell'abitazione, adesso magari si preferisce mantenere questo piccolo salvadanaio da parte per affrontare eventuali disagi l'anno prossimo. Detto questo, appunto, relativamente alla contrazione delle erogazioni, sono più da ricondurre, secondo il vostro osservatorio, Roberto, alle banche che non mettono a disposizione questa liquidità nei confronti della loro clientela? Sono più le famiglie che fanno meno richieste perché il mercato del lavoro ha qualche difficoltà? Dove pende l'ago della bilancia? È effettivamente un mix proprio di queste diverse componenti. Innanzitutto, soprattutto nella seconda parte dell'anno, c'è stata una fortissima contrazione di mutui di surroga, che ovviamente via via che i tassi salgono risultano meno convenienti, perché permettono teoricamente a costo zero di sostituire un mutuo con uno più conveniente. Se i tassi salgono, chiaramente le opportunità di cambiare in meglio sono minori, e quindi già questo ha ridotto notevolmente il volume dei mutui. Basti pensare che nella prima parte dell'anno questi mutui pesavano oltre per un terzo del totale dei mutui erogati, adesso siamo a meno del 20%, intorno al 15%, quindi già di per sé una forte contrazione. In più, i tassi medi così elevati, come dicevamo, non solo in parte scoraggiano le persone a chiedere mutui, almeno nell'immediato, o comunque ci mettono più tempo perché devono guardarsi intorno più attentamente e capire quali banche tra le varie offerte mantengano degli spread un po' più accessibili, ma anche da parte delle banche stesse, perché obiettivamente tante banche hanno una maggiore difficoltà di liquidità, non hanno liquidità in abbondanza e non a caso la strapagano sul mercato e quindi devono in qualche maniera centellinare le erogazioni. Se a questo aggiungiamo il fatto che lo stesso mercato immobiliare, per gli ultimi dati rilevati, è esso stesso in frenata in termini di numero di compravendite, è chiaro che viene meno anche un ulteriore volano del mercato mutuo. Certamente. Cioè proprio l'acquisto delle abitazioni. C'è un ascoltatore che si lamenta del fatto che parliamo sempre dei mutui per la casa e mai delle persone che stanno in affitto. Allora noi promettiamo adesso a questo ascoltatore che ci ritorneremo su questo argomento. Per la verità ne abbiamo parlato proprio poche settimane fa con l'osservatorio Nomisma, anche se effettivamente ci siamo soffermati un po' più sui canoni, sul mercato, non sulla situazione delle persone che magari l'affitto non lo riescono a pagare. Quindi io prometto all'ascoltatore che lo faremo al più presto. Effettivamente queste persone non rientrano in nessun tipo di moratoria, se non riescono a pagare l'affitto se la devono vedere solo con il padrone di casa e quindi sì, hanno poche altre opportunità. Sì, Roberto. È un tema corretto, anche perché tante volte parliamo dei mutui e diciamo che le banche poi impongono, tra virgolette, che la rata non superi un certo valore del reddito. Purtroppo nessuno tutela da questo punto di vista gli affittuari, infatti, perché il padrone di casa non è che spesso va a guardare quanto pesa l'affitto sul proprio reddito, quindi c'è chi purtroppo non si può permettere un acquisto ed è costretto tra virgolette ad affrontare un affitto anche molto rilevante, perché poi gli affitti storicamente salgono anche più del prezzo degli immobili, infatti, come media. Non è che abbiano subito per la crisi molti ridimensionamenti, no, infatti, perché abbiamo detto più volte che magari un proprietario, piuttosto che abbassare il canone, raramente lo fa, preferisce non affittare. Esatto. Ci fermiamo, adesso abbiamo ben sistemato i collegamenti sia con l'avvocato Ascioti che con Roberto Morgante, allora non li faccio iniziare per niente, ci prendiamo subito la nostra prima pausa e poi cominciamo appunto a rispiegarvi un po' il funzionamento del fondo di solidarietà, della Consap per la sospensione delle rate per chi non riesce a pagare il mutuo, esaurito, ma forse verrà ripristinato a gennaio, e del fondo invece per le giovani coppie che vorrebbero comprare casa, ma magari la banca ha detto no, ma ci potrebbe essere questa alternativa. Salva Danaio. Ci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, oggi a Salva Danaio ritorniamo su un tema delicatissimo che sta praticamente a cuore nel cuore di tutte le famiglie italiane, o perlomeno gran parte di esse, soprattutto quelle che naturalmente hanno acquistato casa negli ultimi anni e quelle che vorrebbero acquistarla, che non possono farlo perché adesso, come sapete, le banche hanno stretto un po' la cinghia. Questo fenomeno l'abbiamo affrontato nella prima parte di Salva Danaio, scusate, oggi ho la gola che sembra una grattugia, grazie a Marco Lombardo, il mio assistente, che mi sta trasferendo tutti i microbi che detiene in corpo da qualche giorno. Ho tentato di resistere, ma speriamo che vada tutto bene. Detto questo, a parte questa deviazione, l'altro grande tema invece del quale vorremmo parlare stamattina è quello relativo alla difficoltà delle famiglie che negli ultimi due anni si sono trovate a non poter pagare la rata mensile del mutuo. E allora che opportunità si sono aperte per queste famiglie? La moratoria dell'ABI, il piano famiglie, questa grande iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana e da 13 associazioni dei consumatori, alla quale hanno avuto accesso 52.000 famiglie italiane, è stata prorogata due volte e probabilmente chiuderà in modo definitivo il 31 gennaio, forse non verrà riprorogata, ma vedremo, non è detto. E poi altre 5.000 famiglie invece hanno sospeso la rata del prestito per l'abitazione accedendo al fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA che fa capo al Ministero dell'Economia. Avvocato Ascioti, lei è, come dire, il custode di questo fondo, buongiorno ancora. Mi sente bene adesso? Eccoci qua. Allora, questa ci ricorda un po' quali erano le caratteristiche di questa iniziativa, che dotazione finanziaria aveva questo fondo di solidarietà, perché anche qua, nell'ambito della manovra Monti, si sta immaginando di poter prorogare questa iniziativa che forse potrebbe diventare la naturale erede del piano famiglie dell'ABI. Insomma, però faccio tutte congetture che magari potrebbero non concretizzarsi, però ho letto qualcosa del genere. In ogni caso, qual è il passato di questo fondo e appunto in che modo le famiglie ne potevano beneficiare? Sì, allora, il passato è semplice. Questo fondo è stato finanziato per il 2011 per un importo di 20 milioni di euro è divenuto operativo dal 1 novembre del 2010, nel senso che da quella data abbiamo cominciato a raccogliere le istanze di accesso al fondo e ormai da circa un mese abbiamo esaurito questi 20 milioni, esaurendo la richiesta di sospensione di oltre 5.500 istanti, la maggior parte dei quali per la causale della perdita del posto di lavoro. So che nella manovra è previsto il rifinanziamento di questo fondo in due tranche, altri 10 milioni per il 2012 e ulteriori 10 milioni per il 2013. Ovviamente la cosa, a parte che fa piacere, ma tra l'altro consentirebbe di far accedere quasi 600 istanze che noi abbiamo continuato a registrare nel rigoroso ordine cronologico successivamente all'esaurimento delle disponibilità del fondo, per cui abbiamo istanze già quantificabili in 1.700.000 euro. Ecco. Quindi, ma in caso di rifinanziamento, avvocato Ascioti, si potrebbe ripartire secondo lei, ma chiaramente ci saranno anche delle regole prestabilite dalle nuove misure, se queste venissero varate appunto prossimamente, si potrebbe partire con l'accogliere le domande già pervenute, oppure secondo lei verranno riscritti i criteri nuovi? Guardi, ovviamente lei ha centrato il punto, in mancanza di una revisione dei criteri ovviamente prenderebbero vigore le istanze già presentate sulla base dei vecchi criteri, ecco. Quindi in ogni caso, ove poi dovessero essere emanati dei nuovi criteri con l'adeguata fonte normativa di natura regolamentare, ovviamente le domande dovrebbero essere riproposte in base ai nuovi criteri. Questa tra l'altro natura. Infatti no, una cosa interessante di quel fondo di solidarietà, che ricordiamo aveva come grande sponsor e promotrice Federica Rossi Gasparrini, presidente della Feder Casalinghe, la differenza fondamentale con il piano famiglie dell'ABI e dell'associazione dei consumatori era che mentre per il piano famiglie si poteva accedere a questa sospensione della rata del mutuo se si era nelle condizioni di aver perso il posto di lavoro, in condizioni di cassa integrazione, in condizioni di morte del capofamiglia o perdita di autosufficienza di un familiare, il fondo di solidarietà in realtà ampliava le possibilità appunto di fare richiesta anche per il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare da 5.000 euro in su, spese per la manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile e un eventuale aumento del mutuo a tasso variabile del 20% per il mensile o del 25% per il semestrale, per cui c'erano le condizioni un po' diverse, per cui effettivamente per chi voleva farne richiesta poteva dare un'occhiata all'una o l'altra opportunità e verificare quale fosse quello che faceva al caso proprio. Poi vi dico anche, da altre indiscrezioni che abbiamo raccolto, quali cambiamenti potrebbero arrivare dalla manovra, ma in tutto questo vado invece adesso al dottor Roberto Morgante, sempre della Consap, per l'altro grande pacchetto di mutui che possono essere stanziati non a favore di chi ha perso il posto di lavoro, ma a favore invece di chi il posto di lavoro ce l'ha ma magari ha altri, come dire, limiti che non gli permette di chiedere un mutuo. Parliamo delle giovani coppie, dottor Morgante, perché invece questo fondo è vivo, vegeto, ancora ben ricco peraltro di risorse finanziarie, non ha avuto un grandissimo successo, non sono moltissimi i giovani che ne hanno fatte richiesta. Dottor Morgante, qual è il punto della situazione, ma soprattutto ci racconti di nuovo quali sono le caratteristiche dei mutui ammissibili alla garanzia di questo fondo? Perfetto, dunque innanzitutto diciamo che questo fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro e si rivolge alle coppie coniugate con o senza figli minori. Dottor Morgante, è al viva voce per caso? Si può mettere in cornetta gentilmente perché non la sentiamo bene? Oppure perfetto. È una cornetta? Ecco, la ringrazio. Va bene. Allora, dunque, diciamo che la dotazione è di 50 milioni e si rivolge a coppie coniugate con o senza figli minori o a coppie non coniugate con figli minori, anche monogenitoriali. I requisiti soggettivi sono età inferiore a 35 anni, un reddito complessivo ISEE non superiore a 35.000 euro e la cosa importante è che non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Quindi nel nucleo familiare ci deve essere un tempo indeterminato. Indeterminato, perfetto. Poi, per completare, ci sono le caratteristiche oggettive dell'immobile, che non deve essere un'abitazione di lusso, e i richiedenti non devono essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo al momento della richiesta. Per quanto riguarda l'iniziativa, è abbastanza complessa, quindi ritengo che anche la formazione da parte delle banche al proprio personale abbia richiesto più tempo. Questo forse è il motivo per cui ancora non ci sono dei numeri significativi. Noi siamo un po' più cattivi, dottor Morgante, della sua diplomazia, insomma, diciamo che magari le banche non hanno avuto tanta voglia di impegnarsi, anche visto che il frangente da settembre in avanti stava diventando sempre più complicato, forse cioè, chiudiamo i battenti direttamente, magari perché impegnarci con questi nuclei familiari che magari non ci soddisfano in termini di caratteristiche. A cattiveria però l'ho detta io, dottor Morgante, adesso questo, torniamo sulla logicamente io non posso dirlo, non ne sono a conoscenza, però posso dire che l'ABI, per quanto l'associazione bancaria, ha provveduto a diramare una circolare esplicativa a tutte le banche aderenti all'iniziativa per facilitare anche il compito alle singole filiali, quindi è auspicabile che quanto prima l'iniziativa parta a pieno regime. Senta, dottor Morgante, peraltro, prima di evitare l'umiliazione di una giovane coppia che magari rientra in questi parametri, che va in banca e la banca dice ma io non ne so niente, noi non abbiamo aderito, diciamo che le banche credo abbiano aderito tutte, ma possono stamparsi un po' di materiale dal sito di Consap in modo da andare ben documentati rispetto alle condizioni che sono necessarie? Sì, allora c'è un portale dedicato che è diamoglifuturo.it, oppure andare sul sito www.consap.it, dal quale poi vengono mandati a su questo portale, su quest'altro indirizzo, e ci sono tutte quante le informative, ma in più c'è tutta la documentazione, compresa il facsimile di domanda. Benissimo, tra l'altro adesso magari la rimando nell'ultima parte di Salvadanaio, mi interessa capire i tassi applicati a questi mutui, perché questi tassi avevano delle condizioni a settembre quando l'iniziativa è partita, e soprattutto dal punto di vista degli spread praticati dalle banche che hanno aderito, insomma l'iniziativa richiedeva spread molto contenuti, con questa esplosione che Roberto Anedda indicavamo prima, adesso sarà curioso capire se le banche forse dicono no perché non sono in grado di applicare queste condizioni. Ti faccio sentire una domanda così mi rispondi, sentirei Maurizio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie Maurizio, ci dica. Io chiamo proprio per il fondo di solidarietà, io sono una persona che sta in difficoltà come tanti altri, sono in cassa integrazione dal 2008, ho già usufruito delle agevolazioni che sono state fatte, ho sospeso il mutuo per un anno, però la mia situazione finanziaria non è cambiata assolutamente. Quindi adesso mi sono ritrovato a richiedere alla mia banca l'intesa di poter aderire a questo fondo di solidarietà, perché mi ho sentito parlare diverse volte al vostro programma. Quindi ha usufruito della moratoria dell'ABI, adesso chiederebbe un'estensione attraverso il passaggio. Allora, il fondo di solidarietà purtroppo ha terminato la sua dotazione, Maurizio, per cui non credo, qualora fosse possibile passare da un piano ad un altro, però insomma il tema è questo, Maurizio, quindi voleva chiedere se... anche sospeso. Sì, esatto, io però l'ho chiesto 5 mesi fa questa cosa di passare al fondo di solidarietà, ho chiesto il fondo di solidarietà. La banca, il direttore della banca prima mi ha detto che non ne sapeva niente, poi si è informato, mi ha chiesto la documentazione per quanto riguarda la mia cassa integrazione, quindi la mia situazione finanziaria. Quando gli ho dato tutta la situazione e hanno visto che effettivamente ero in difficoltà, mi hanno dato una risposta che la banca non accettava senza darmi nessun tipo di motivo, cioè non è che mi hanno dato un motivo dicendomi non rientravo nei canoni, mi hanno solo detto no, mi dispiace, ma il fondo di solidarietà non esiste. La banca non accetta il fatto della sospensione della rata. Va bene, Maurizio, si fermi lì, commenteremo il suo caso, che a questo punto credo non possa prendere la strada di queste iniziative delle quali abbiamo parlato. Forse qua bisogna fare una chiacchierata molto franca col direttore di banca e trovare altre alternative. Salvadanaio. Allora, abbiamo sentito il caso di Vincenzo dalla provincia di Pisa. In cassa integrazione ha già aderito alla moratoria dell'ABI, quindi ha già avuto la sospensione per un determinato periodo di tempo del suo mutuo, e situazione nella quale si troveranno sicuramente molte persone, non è in grado di riprendere il pagamento. Chiedeva se è possibile il passaggio al fondo di solidarietà. Io non credo, intanto perché questo fondo ha terminato la dotazione, forse lo dovremmo rivedere a gennaio, ma adesso lo chiediamo all'avvocato Asciotti di Consap. Prima però un commento, Roberto Anedda, per capire qual è la sensazione che genera una testimonianza di questo tipo. Io gli ho suggerito la chiacchierata molto franca col direttore, ma questo direttore prima non dà risposte e comunque mi sembra molto poco disponibile a chiacchierate rasserenanti nei confronti di queste persone. Sì, diciamo che al di là dei dettagli più tecnici che potremmo avere dalle persone di Consap, certamente lascia perplessi che di fronte anche a provvedimenti presi a favore di chi si trova in difficoltà, e purtroppo a volte neanche in momentanea difficoltà, perché anche questo caso dimostra che spesso la difficoltà permane e prosegue, non ci siano delle risposte chiare da parte degli operatori, perché anche se si deve dire un no, dare un no motivato serve anche a capire quali sono i limiti, quali possono essere le alternative. Cioè, un no rimbalza semplicemente la persona senza risolvere alcunché, senza neanche dimostrarsi minimamente disponibile a venire incontro alla persona, perché poi alla fine stiamo parlando comunque di un cliente della banca, di un cliente che ha difficoltà a pagare. Una banca che dice no e basta, sembra che stia dicendo: se sei in difficoltà a me non interessa, arrangiati. E infatti, insomma, qui magari potrebbe essere praticata una rinegoziazione che abbassi notevolmente la rata per questa persona, e magari ci può rientrare, perché è l'unica cosa, perché anche qui le banche non è che hanno voglia in questo momento, che già stanno affrontando una marea di problemi, di cominciare ad attivare tutte le ipoteche che sono appunto possibili sul mercato. Quindi insomma speriamo che il nostro ascoltatore riesca a risolvere la sua situazione. Però, avvocato Asciotti, il problema che sollevava: una volta che una persona ha già fruito del piano famiglie, detto che il fondo di solidarietà adesso non è più disponibile e forse verrà rifinanziato in gennaio, questo travaso in ogni caso era possibile nella normativa che fissava gli standard del fondo di solidarietà? Guardi, infatti io innanzitutto condivido pienamente i concetti espressi da Ultimo, perché tecnicamente comunque il signore di Pisa non avrebbe potuto accedere al fondo, perché l'ipotesi della cassa integrazione non era considerata. Però un conto è sentirsi rispondere come le sto dicendo io, e un conto che magari la persona si sente rispondere: non esiste il fondo di solidarietà. E infatti, cioè, avvocato, lei sa che sta facendo una cosa che praticamente per qualche direttore di banca non vale nulla, ci mancherebbe altro, no? Con tutti i fondi peraltro che gestite lì in questa istituzione, mi scusi, in pratica, deviato un po'. Nel caso la banca ha operato correttamente, perché in effetti la domanda non sarebbe nemmeno dovuta pervenire a noi in quanto mancante di uno dei presupposti formali per l'accesso al fondo, però questo magari andava detto, ecco. Infatti, allora, detto questo, andiamo di nuovo alle giovani coppie. Un ascoltatrice Giuseppe da Milano ci scrive: va bene aiutare le giovani coppie, ma perché se uno è single e vuole comprare casa non può accedere al fondo Consap? Dottor Morgante, mi pare di sì, però questo single deve avere un figlio minore? Perfetto, quello che dice lei è correttissimo. Il single può anche richiedere, però deve avere un figlio minore che vive con lui. Allora, senta, i tassi applicati ai mutui garantiti dal fondo di sostegno alle giovani coppie, il fondo di sostegno, il fondo appunto per acquisire mutui per le giovani coppie, erano a settembre particolarmente favorevoli, no? Sono blindate queste condizioni, poi magari le ricordiamo, oppure alla luce del fatto che gli spread bancari sono aumentati sui finanziamenti immobiliari, sono state riviste anche le caratteristiche dei tassi che avete individuato voi nell'ambito di questa iniziativa? No, le condizioni sono praticamente bloccate, in quanto sono definite nei protocolli vecchio protocollo d'intesa che è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio e l'ABI. Quindi i tassi sono quelli, li ricordiamo, per quanto riguarda il variabile Euribor più 150 punti base, i tassi massimi. Quindi un punto e mezzo, quindi io invito a sensibilizzare l'udito su questa notizia, per cui le giovani coppie che si sentono dire no dalla banca e magari rientrano nelle condizioni che abbiamo detto prima, guardate che questo è molto vantaggioso, per cui provateci. Per il fisso addirittura l'IRS è più un punto e 20, quindi le banche si attengono a questo perché hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, non c'è problema. Anzi, questi sono i tassi massimi, non è detto che qualche banca magari lavori anche a dei tassi inferiori adesso. Addirittura. Non posso saperlo. Infatti, Roberto Ned, insomma, che noi purtroppo abbiamo questo problema di avere un'età superiore ai 35 anni, perché sennò qua veramente sarebbe da chiederlo al volo. Adesso, a parte insomma, sponsorizzare l'iniziativa, che non ci sembra il caso, non lo facciamo mai per nessun motivo al mondo, su niente, però effettivamente le condizioni sono vantaggiose. Tu che dici? Insomma, se un giovane si presenta in banca con tutta la documentazione necessaria per fare questo mutuo. No, ma, certo che farglielo a un euro e a uno spread all'1,5 deve essere un bel sacrificio adesso per la banca. Questo sicuramente sì, occorre dirlo proprio per quello che dicevamo all'inizio, che oggettivamente il costo del denaro per le banche adesso è molto superiore. A questo livello ottenere un mutuo a queste condizioni è veramente un'operazione che chiaramente è in perdita per la banca, però chiaramente è collegata a un'iniziativa di tipo pubblico e quindi... si prevede che la banca su quello non guadagni, cioè la banca stessa probabilmente nel sottoscrivere questo tipo di convenzioni sa che si tratta di operazioni fatte per agevolare anche determinati tipologie di clientela. Però voglio sottolineare anch'io quello che dicevi tu poc'anzi, e che è giustissimo, sono condizioni veramente vantaggiosissime rispetto a quello che è purtroppo lo scenario medio dei mutui di adesso. Ricordiamolo ancora, lo spread medio sui mutui adesso è di 300 punti base. Sì, guarda, non ti dico che cifre 3%, che mi stanno scrivendo gli ascoltatori ai nostri sms. Mentre con questa possibilità si ottiene uno spread dall'1,20 all'1,50, quindi meno della metà, e questo vuol dire avere addirittura dei tassi fissi di poco superiori al 4%, dei variabili intorno al 2,5%, quindi certamente molto vantaggiosi, non solo come tasso, quindi come costo, ma anche come rate da pagare. Quindi allora, fate bene i conti e provate a chiederlo. E provate. Allora, come sentite, c'è la sigla, non riusciamo a rispondere ad Enrico e Vincenzo, scriveteci che vi risponderemo con una mail. Solo un'ultima cosa, dottor Morgante, mi ridà l'indirizzo della vostra iniziativa? diamogli futuro.it, in attesa che poi il fondo di solidarietà invece per le famiglie in difficoltà venga rifinanziato. Noi successivamente ritorneremo su questo argomento. Grazie all'avvocato Giulio Ascioti e Roberto Morgante della Consap, Roberto Anedda di Mutui Online, Marco Lombardo ammalato, al mio assistente di redazione, mi ha trasferito tutti i microbi, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Domani, buona giornata.